Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fire up. Fuck. Do. Ego. Fuck. To do. www.askthebenny.com. Ebbene sì, ebbene sì, questa è la sigla di Battito Madre, che vuol dire che è iniziato un altro episodio di questo, appunto, di questo programma radiofonico. L'ultimo episodio. Sì, esatto, l'ultimo talk show della stagione 2023-24. Ci sono delle facce lunghe in sala quando diciamo questo, ma poche ma lunghe. Ma è vero, questo non vuol dire che Battito Madre sparisce, ma semplicemente il talk show torna a settembre, ottobre, novembre. Noi continueremo a fare magari qualche festicciola, a fare qualche set su RBL, come succede il prossimo lunedì, che ne avremo 20. Ciao Cole, intanto. Ciao Piero e ciao a Exalge, a chi ci ascolta da casa, a chi ci ascolta in differita, a tutti. Buon compleanno Alge. Buon compleanno Alge, perché questo è il fine settimana in cui Exalge compie 4 anni. Noi viviamo questo spazio come Battito Madre da 2. Brindiamo a Exalge, che insomma... Non ho niente. Baristi per piacere. Baristi per piacere, una birra. Tanto da bere a mio fratello. Siamo in diretta appunto su Radio Exalge, su Exalge.com, live da Exalge. Se ci state ascoltando da qualche parte e siete qui in zona, siete ancora in tempo a venire qui, perché poi la serata è lunga. Ebbene, visto che la serata è lunga, ma anche questo talk show si prospetta molto lungo, io direi di andare subito, vero Coli, molto, molto dritti. Oggi appunto parliamo di, in generale, rock, per non dover specificare meglio, ma parleremo di tante cose. Apriamo a modo nostro con questo pezzo che si chiama Stop the Rock, e che alla fine proprio rock non è, ma a noi piace molto, e quindi rock. Iniziamo. Ci abbiamo intitolato la puntata, esatto, quindi... episodio 5, finale, siamo Exalge, venite, vi aspettiamo. Rock, you can't stop. Stop the Rock di Apollo 440, non lo so come dovrei all'italiana, sì, dai, 440 forse, però insomma è questo pezzo di copertina qui in realtà al quale abbiamo dedicato, abbiamo battezzato questa puntata numero 5, cioè finale di stagione del talk show Dibattito Madre. Bene, in diretta su... credo colonna sonora di FIFA 2000, cioè, o meglio io me lo ricordavo da lì. Ok, ci piace. A proposito, visto che poi ci sono i Materazzi, hai capito? Come abbiamo capito. Fatto? Abbiamo fatto proprio perfetto, minchia, incredibile. Cori, sei imbattibile. E allora, abbiamo detto che parliamo di rock, ma in realtà rock è davvero un insieme vastissimo, che tra l'altro forse dire rock qui in Italia vuol dire capiamo una cosa nell'immaginario, se lo dici altrove l'immaginario è un po' diverso. Ma noi proviamo a fare ordine, soprattutto per il nostro discorso, ecco. Per dire rock, prima di tutto bisogna dire rock and roll. È bello partire così, no? Noi abbiamo preso a fonte molto in questa stagione a un libro che abbiamo già citato, che è Around the Clock, del professor Fabbri. Che inizia, è bello iniziare così, dice: un luogo comune della critica vuole che il rock and roll nasca dall'incontro tra rhythm and blues e country and western. Confutato da tempo, ha avuto a lungo la funzione di sminuire l'importanza della componente afroamericana. Citiamo testuale. Esatto. Per cui sostanzialmente noi del D&B abbiamo parlato l'anno scorso, abbiamo parlato forse anche nella pilota di quest'anno, abbiamo capito che sostanzialmente anche quello era un po' un'etichetta che si dava a certa musica afroamericana, che immediatamente compariva nelle classifiche e nei negozi di dischi, e quindi andava classificata in un certo modo. Sostanzialmente rock and roll è un'altra sovraetichetta che viene usata per rendere più accettabile e meno impegnativa per il pubblico bianco l'appartenenza nera, questa componente molto nera dell'R&B. Che poi una cosa che mi aveva fatto anche pensare era, cioè, proprio in merito a questo discorso, che sì, quello che proprio veniva demonizzato era un po' il canto delle persone afroamericane, che comunque portava sempre al sesso, al muoversi, to rock and roll. Sì, sì, sì, sì. E poi alla fine comunque è stato accettato quando un bianco ha iniziato a farlo. Quindi cosa... Sì, questa è una storia forse che non ci sorprende. Tra la cosa un po' paradossale è che per rendere più accettabile questa cosa, che sembrava essere scandalosa semplicemente perché fatta e proveniente dalla cultura afroamericana, si è deciso di chiamarla rock and roll, che rimanda proprio davvero all'atto sessuale. To rock and to roll è abbastanza esplicito per gli americani, ecco. E questa è una cosa abbastanza paradossale. Ecco, questo che mi raccontavi prima, Colin, è un'altra cosa interessante, cioè il successo che aveva avuto l'R&B, cominciava ad avere nel pubblico bianco, ha fatto sì che molti dei primi pezzi che poi sono stati chiamati rock and roll non fossero altro che delle cover di artisti bianchi di vecchi pezzi o pezzi di poco precedenti R&B di artisti afroamericani. E questa è una guerra delle cover, la si chiama, no? Per le case discografiche, che ovviamente viene vinta dai bianchi, e da lì appunto Bill Haley, appunto come ha detto Coli, Elvis Presley, che ha fatto sì che questo rock and roll poi andasse a tutto il pubblico americano prima e mondiale poi. Ci piace solo citare per ultimo il film Blackboard Jungle, che è stato tradotto in italiano Il seme della violenza, che la trama la sa meglio Coli, ma in cui sostanzialmente è stata inserita... Va bene. Era una storia comunque, una storia abbastanza drammatica e profonda sulla società americana del tempo, metà-inizio anni 50, in cui Rock Around the Clock, che conosciamo tutti, di Bill Haley, è stata inserita, e anche quello è stato un po' il vettore, Bill Haley anche lui bianco, di popolarità di questo rock and roll. Noi ovviamente, come facciamo mai a Battito Madre a suonarci il rock and roll di una persona di Bill Haley o di Elvis Presley bianchi? Noi andiamo a prendere invece un pezzo dell'uomo che chiamiamo Fats Domino, e che anche lì conosciamo tutti, e si chiama... Scusami, vai, continua. Si chiama Ain't That a Shame. Il pezzo è di quell'epoca là, del 1955, e fa un po' così. Questo è sempre Battito Madre, stagione 2, episodio 5, finale, Fats Domino. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? You feel like rain. Ain't That a Shame, dell'uomo che chiamiamo Fats Domino. È questo rock and roll che abbiamo scelto per ascoltare oggi insieme. Questo rock and roll bello, swingato, che si sente proprio essere figlio poi dell'era un po' dello swing, no? Quando le orchestre poi sono diventate delle formazioni più piccole e la musica si è evoluta, ma l'attitudine, se vogliamo, era quella, no? Leggevo su Fats Domino che uno dei motivi per cui ha avuto un così grande successo all'inizio, quando appunto ancora gli artisti afroamericani erano ancora soggetti a certe discriminazioni, era proprio il suo aspetto. Non so se l'avete mai visto, ma forse l'album della copertina, esatto, che abbiamo appena messo, ritrae proprio la sua faccia. Bellissimo. Che ispira una tenerezza, una fiducia, cioè sembra proprio un uomo che andava contro quella che era il pregiudizio, no? Quindi l'uomo nero, aggressivo e molestato, non lo so. Lui invece si vede che hanno puntato molto su questo suo aspetto. Ebbene, allora, a proposito di orchestre, di swing e di questo primo rock and roll, è vero che il successo di questi cantanti negli anni 50 dipendeva molto dai gruppi che li accompagnavano. Per Bill Haley, ad esempio, erano i The Comets, però questi gruppi non riuscivano a emergere come gruppi, ma solo a aver successo accompagnando una grande voce del rock e della musica contemporanea. Questo succedeva fino alla fine degli anni 50, perché poi improvvisamente le classifiche cominciano ad essere popolate di brani strumentali, soprattutto di colonne sonore di film e dei western. Ebbene, questa abitudine del pubblico e questo trend, diciamo, di vendita dei pezzi rock and roll strumentali ci porta un po' a parlare della formazione classica di quello che poi è diventato il rock, no? Cioè le due chitarre, il basso, la batteria. È la prima volta che citiamo la televisione come mezzo di promozione, no? cioè non, se non sbaglio, nei generi che abbiamo affrontato. Sì, sì, di fatto sì, è vero. In realtà qui si parla di Cina, però alla fine sì, sì, gli anni cioè la televisione era già abbastanza diffusa, credo, a fine 50 negli Stati Uniti. È come a rispetto, cioè a dispetto degli altri generi, il rock and roll è finito in TV subito attraverso, cioè quindi è arrivato davvero a chiunque nella popolazione. Certo, perché poi alla fine è quello che abbiamo detto anche nella pilota, forse è quella musica che è stata, che ha avuto la propria evoluzione fondamentale nel momento in cui anche le cose a livello tecnico, tecnologico e societario hanno permesso che la musica pop, cioè la musica popolare tradizionale, diventasse pop. Ebbene, una delle prime band a raggiungere il successo avendo questa formazione, due chitarre, basso e batteria, è negli USA, si chiamano i Ventures, che probabilmente molti conosciamo, poi andremo ad ascoltare un pezzo. In questi stessi mesi, cioè a fine degli anni 50, in Inghilterra nascono invece gli Shadows, che adottano una formazione identica a quella di Ventures. Il gruppo raggiunge una discreta dose di successo in Inghilterra e comincia un po' con questa rivalità a distanza con i Ventures, ma in realtà gli Shadows, nonostante fossero molto famosi in Inghilterra, non raggiungono mai la fama negli Stati Uniti. Qual è però la cosa interessante? Che all'apice della fama degli Shadows nel Regno Unito, loro cominciano a incidere per la EMI, EMI, che è insomma una delle grandissime etichette della storia della musica pop, e registra, guarda caso, negli studi di Abbey Road, che ancora non sono così prestigiosi, ma sostanzialmente il know-how, no? Il sapere che è stato sviluppato registrando in quel tempo là gli Shadows è stato fondamentale perché poi in quegli studi là facessero la storia della musica pop, i Beatles. E detto questo, insomma, magari dei Beatles diciamo due cose giusto leggermente, perché non si possono non citare più tardi. Noi adesso andiamo a sentire proprio i Ventures, che è questo rock and roll strumentale bellissimo, divertentissimo, e torniamo subito perché il pezzo è molto breve. Questo è sempre Battito Madre, episodio 5, in diretta su astralbene.com e su Radio Exalge. Walk Don't Run dei Ventures, insomma appunto divertentissimo, no? Questo rock and roll che a me sembra quasi già surf rock, no? Ricorda un pochino. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Beh, le chitarre sono quelle. Insomma, in realtà è molto facile, no? Pensare, capire come da questa cosa qui poi sia nato un fenomeno con i Beatles. Che insomma, questa cosa io non sapevo. Prendono le mosse da un gruppo di skiffle, che in realtà è questo genere un po' misto tra il blues e l'R&B, e quello suonato con strumenti un po' di fortuna, no? Con i vasi, con quelle cose per asciugare i panni, no? E di talini di ferro. Questo si chiama skiffle ed era la prima formazione dei Beatles. Era stata fondata da Lennon nel 56, insomma, e facevano skiffle, ecco. Hanno cambiato un sacco di noi: Moondogs, Beatles, Silver Beatles e niente. Però sostanzialmente poi hanno messo in fila tre singoli in due anni, che è Love Me Do, Please Me, Please Please Me e From Me To You. 62-63 hanno fatto delle cose, insomma, che poi tutti sappiamo. Ma enough about the Beatles, perché poi al di là di loro, in realtà questa è la stessa cosa che hanno fatto loro. Il repertorio di questi musicisti nel Regno Unito erano pezzi dei loro idoli americani, cioè di Elvis, di Chuck Berry, di Buddy Holly e addirittura anche di alcuni tra i primi gruppi della Motown. Twist and Shout dei Beatles era degli Isley Brothers, alcuni pezzi delle Shirelles, Arthur Alexander, insomma, i Rolling Stones alla stessa maniera. Questa cosa interessantissima che ha trovato Coley, il pezzo famosissimo degli Animals, The House of the Rising Sun, è una registrazione di un canto tradizionale registrato in una registrazione sul campo negli anni 30 dal nostro protettore, dal patrono di Battito Madre, Alan Lomax, e usavano il repertorio di Sam Cooke, Jimmy Reed, insomma, era questa roba qua. Tanti artisti appunto neri, oltretutto. Cioè, comunque Chuck Berry, minchia, Sam Cooke. Eh sì, quindi il sogno di questi facevano rock and roll in UK con il sogno di andare negli Stati Uniti a incontrare i propri idoli. E cosa succede ai Beatles? Che il primo febbraio 64, avevo detto enough about the Beatles, eppure eccoli qua di nuovo. E dopo, esatto, non credo finiremo di parlare di Beatles. Però oltretutto l'anno dopo l'ultimo pezzo anche di cui hai appena fatto il nome in quei tre anni lì, From Me to You probabilmente. I Want to Hold Your Hand. O forse I Want to Hold Your Hand, sì. Primo febbraio 64. Sì. Raggiunge il primo posto della classifica Billboard inglese. Anzi, no, scusa, classifica Billboard vuol dire US. E il 7 febbraio, cioè nemmeno una settimana dopo, loro atterrano a New York, accolti dal presidente degli Stati Uniti d'America, cioè Kennedy, e da 50.000 fan urlanti. Durante questo loro tour negli Stati Uniti, loro registreranno quello che era il record di presenza a un concerto nello Shea Stadium di Austin, se non vado errato, di New York. Ora non mi ricordo qual era l'attendance, ma insomma era stato il record all'epoca. C'erano delle foto molto famose, di cui una tra l'altro abbiamo messo su Instagram. Insomma, rivoluzione, in realtà non nel contenuto, a proposito di I Want to Hold Your Hand, ma negli arrangiamenti e nell'attitudine e nel mood generale che questa musica nuova, che questi inglesetti di Liverpool trasmettevano. Sì, era interessante anche il contesto un po' storico che stava vivendo l'America, e che probabilmente è ciò su cui ha fatto breccia la musica dei Beatles e le sonorità dei Beatles. Perché appunto tipo nello stesso momento c'era il problema con i missili sovietici a Cuba, c'era la Cina che aveva sviluppato la prima bomba atomica, e in un certo modo probabilmente con la loro gioia di vivere e quant'altro hanno fatto completamente breccia nel cuore di una nazione, anzi del mondo intero. E a Londra però nel frattempo c'era un altro grandissimo momento di fervore, tanto da far soprannominare la Swingin' London, ed era la città di più di tendenza del mondo, ed era questa tendenza modernista. Il modernismo è stato un movimento estetico, artistico, letterario, diciamo cavallo tra il 1800 e il 1900. Però in realtà in questi anni 60 è diventato un po' pervasivo, ecco, è arrivato anche alla musica. Alla musica, alla moda, alle attitudini, a una sottocultura, una primavera sottocultura di giovani. che a Londra e in Inghilterra si chiamava MOD, era il movimento MOD. Il programma televisivo a proposito di riferimento che tutti guardavano, ed era, è stato un po' anche lì la base su cui poi quella comunità lì ha potuto riconoscersi, era Ready Steady Go, che è il programma che ha lanciato gli Who. Comincia ad andare di moda anche in Inghilterra la figura del DJ che propone musica di ispirazione anche non solo UK, perché poi sai, cazzo, la società a Londra, in Inghilterra, negli anni a metà anni 60 era davvero mega segregata. E però questi, tra i mods andavano di moda DJ che proponevano R&B, soul, ska e reggae. E comincia anche a diffondersi tra gli artisti, leggiamo dei Beatles ad esempio che cominciavano a mal sopportare il pressing delle etichette che chiedevano sempre nuova musica perché loro volevano vendere dischi, e invece i Beatles, tra l'altro a metà degli anni 60, e tra l'altro questo tour negli Stati Uniti ha davvero anche cambiato il loro modo di vedere la musica e di vivere la musica, insomma l'artista cominciava nella vera società di massa a vivere la propria arte in modo, o meglio, tutto ciò che circondava la propria arte in modo un po' insofferente. Ebbene, abbiamo parlato degli Who, abbiamo detto del movimento MOD, e c'è questo disco degli Who che è un po' successivo rispetto alle cose di cui stiamo parlando, perché questo è un disco del 73 e che pure è stato eletto a manifesto un po' postumo, però a manifesto del movimento MOD in Inghilterra. Il disco degli Who si chiama Quadrophenia e noi ci andiamo a sentire non la title track ma il pezzo che si chiama The Dirty Jobs, in cui si sente molto, insomma si sente davvero questa spinta un po' alla complessità appunto moderna. Metà anni 60 c'era questo grande vortice e noi appunto andiamo ad ascoltare The Dirty Jobs, The Who, e questo è sempre Battito Male. Noi siamo in diretta ma siamo anche live da Exalge, venite a trovarci, noi siamo qui con le buone musiche. Reveals all Sì, The Dirty Jobs degli Who, che viene dal disco del 1973 che si chiama Quadrophenia, ed è stato appunto, lo ripeto, eletto a manifesto del movimento musicale ma di controcultura che si è autobattezzato Mods per modernismo. A proposito di modernismo, ma non nella musica e non tra i movimenti giovanili, diciamo, c'è Frank Lloyd Wright, cioè in architettura. Noi non parliamo di lui, ma c'è una bella citazione. E dice che gli Stati Uniti sono come un grande piano inclinato, cioè tutto scivola piano, verso piano inclinato. Sì, sei uscito dal microfono. Sì, si era sentito. Perché volevo guardarti negli occhi mentre dicevo questa cosa. Tutto scivola verso ovest, cioè la California. Già dalla febbre dell'oro, quando è stato nominato il Golden State, insomma, la California, di cui la musica è parte fondamentale della cultura. Insomma, ed è sostanzialmente da questa cultura molto identitaria californiana che nasce questa musica che forse abbiamo citato prima, e si chiama surf rock. Nei primissimi anni 70 nel sud della California, ed è una musica che coglie perfettamente lo spirito di quei luoghi, di quegli anni, niente di male poteva succedere, no? Insomma, gli anni 60 in California, io me li immagino proprio davvero come minchia, luce dorata ovunque. Esatto, e se ce lo immaginiamo adesso, pensa appunto in quegli anni cosa doveva poter significare per i ragazzi che volevano affermarsi, boh, magari nella musica o in qualche... cioè era proprio la corsa all'oro, per questo poi c'è stata anche la corsa all'oro in quei territori, e perciò è stata anche chiamato Golden State. Quindi proprio l'ambizione di arrivare lì per un giovane americano deve essere stata la terra veramente promessa. Alta. Mi viene in mente, ora non mi ricordo quale stagione sia, ma di Mad Men, che è proprio ambientata esattamente in questi anni, e c'è Don Draper, il protagonista, che è una certa sbrocca, va in California, resta là. Cioè l'ambiente era quello. Ma il surf rock l'ha inventato Dick Dale e la sua band si chiamavano i Deltones, che insomma con la chitarra che imita l'andamento delle onde, molto carino. Da questo ovviamente vengono i Beach Boys con Brian Wilson, Surfing USA, insomma hanno dominato le classifiche per mesi se non anni. Pet Sounds dei Beach Boys nel 66, considerato il primo LP della storia rock, insomma non lo so. Così cosucce? Perché dici, perché sei, boh, perché questo tono? Non lo so, il primo vero LP della storia del rock. Ah, boh. Dici di no? Ok. Cioè nel 66 era già successo un botto di cose. No, però era inteso come un ascolto omogeneo. Cioè nel senso, a differenza del LP nel senso, certo, sì, certo, un long certo. play, nel senso che ogni canzone, ogni brano era progettato per essere ascoltato in sequenza agli altri. Quindi era come un ascolto unico. Il formato effettivamente l'avevamo letto, c'era molta abitudine a fare compilation e non si pensava che il pubblico non avesse piacere ad ascoltare un artista per tutto questo tempo. Vero. E insomma, California, San Francisco, ci sono le sostanze, l'LSD. In particolare c'è molto geolocalizzato questa strada che si chiama Hyde Street, con la, cioè H-A-I. In cui insomma queste grandi case vittoriane vengono abbandonate dai borghesi proprietari, queste case meravigliose, e vengono affittate a pochissimi dollari a studenti di San Francisco, appunto nel 66, la Summer of Love, insomma sappiamo molto bene che cosa è successo, tutta la psichedelia, certo, varia di Woodstock. Anche questo, cioè per questa cosa devo dire che la coincidenza dei fatti e delle circostanze è stata determinante, cioè sapere che c'è esattamente un posto in cui è nata la Flower Generation è interessante, dato da perché c'erano queste case sfitte che erano popolate da artisti, studenti e gente che aveva l'ambizione di rivoluzionare in qualche modo quella che era la loro vita, l'America. guerra in Vietnam. E poi vabbè, qua leggiamo affittate pochi dollari, a volte probabilmente erano anche occupate. Ma insomma, quella generazione ci è stata raccontata davvero un po' in tutte le salse. Sarebbe interessante poterne parlare in modo più approfondito, perché poi ovviamente a fine degli anni 60 è stata vittima delle proprie contraddizioni. Ma insomma, a livello musicale passano da San Francisco i Beatles durante il loro tour americano e conoscono questa controcultura, e da lì in avanti non sono più gli stessi artisti, in qualche modo disconoscono tutto quello che hanno fatto prima e si inventano The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, questa band immaginaria che non esiste e che è insomma è un disco che è simbolo di quel rock and roll là di quegli anni. Ma questo per dire cosa? Che in quel periodo là, mentre su una costa succedeva questo, a New York, che rappresenta sostanzialmente la versione in negativo, l'altro lato della medaglia della California, succede un'altra cosa importantissima, che all'epoca non veniva percepita come così importante, almeno in senso musicale, ma poi lo è davvero stato. Nel Village a New York c'è questo locale che si chiama Café Bizarre, in cui non vengono serviti alcolici. Questa non è la prima volta che torna una cosa del genere a Battito Madre. È vero, era nella Hacienda, forse. Forse nell'Hacienda o in qualche locale del genere. No, l'Hacienda, figurati, se non andava alcol. Mi sembra strano. Insomma, è un altro locale del genere. Però sì, forse nel genere della disco music ce l'ha venuto fuori. Ah, sì, hai ragione tu. Insomma, avventori di questo bar sono i Velvet Underground e Lou Reed. Loro suonano, c'è un piccolo palco e loro suonano al Café Bizarre tutti vestiti di nero, cantano di Sadomaso ed eroina per un gruppo di fedelissimi, bello. Succede che però alla seconda volta che salgono su questo palchetto a guardarli c'è Andy Warhol e non ci capisce più niente. Li invita nel proprio circuito di amici stretti e comincia a finanziarli. Diventano i preferiti di Andy Warhol, che accoglie la cantante Nico. Sì, gli viene proposta, se non sbaglio, da un produttore che stava anche seguendo, che con cui spingeva il progetto di fare con Andy Warhol una produzione musicale. In sostanza, gli viene proposta Nico. Prima Lou Reed non era molto convinto, anche altri membri della band così, però in questo vortice di situazioni eccetera, e soprattutto avendo a che fare con una persona come Andy Warhol in quel momento, che era una delle una degli artisti più importanti in voga del momento, si sono fatti andare bene anche Nico, che comunque chi è che non se la farebbe andare bene? Sì, diciamo. Leggiamo Andy Warhol ha dovuto convincere Lou Reed e John Cale a trovare dei pezzi da far cantare a Nico. Tra questi pezzi c'è uno che ascolteremo più tardi. Tra le altre cose, oltre al disco insomma iconico, le varie copertine iconiche che ha fatto Andy Warhol per i Velvet, c'era questo show che si chiamava Exploding Plastic Inevitable, in cui i Velvet suonavano mentre gli venivano sparate addosso delle proiezioni dei visivi che faceva Warhol, e questo era un po' lo spettacolo che a New York andava fortissimo. Hanno provato ad esportarlo nella West Coast, non gliene è fregato niente nessuno, cioè lì avevano in mente altre cose, certo, rispetto al Sadomaso, nelle cantine di New York con i ratti e quegli altri di là a fare surf al sole. Insomma, erano cose abbastanza incomunicabili. Non ha attecchito. Però quel disco lì, dove Velvet Underground e Nico, è diventato uno dei più influenti della storia del rock e del pop, ovviamente. Dunque, appunto, tra i pezzi che sono stati scelti, che sono stati dati a Nico, c'è Femme Fatale, che conosciamo tutti ed è proprio molto bello. I Velvet hanno un pezzo in questo disco che si chiama Heroin, e insomma forse si sente di più la sensazione dell'Heroin in questo pezzo qua che canta Nico e che andiamo ad ascoltare. Si chiama Femme Fatale e questo è sempre Battito Madre in diretta su Radio Exalge. Into it's true. knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the things she does to please. Capito, mentre in California c'erano i Beach Boys, a New York c'erano i Velvet Underground con Nick e con Andy Warhol, come faceva quel pubblico lì in California a capire le cose che gli hanno portato i Velvet? Era abbastanza impossibile. Ebbene, noi siamo arrivati qui e noi siamo tornati in diretta su Radio Exalge e su astralbear.com. Questo è Battito Madre, l'ultimo episodio del talk show per questa stagione, e abbiamo appena finito di ascoltare i Velvet Underground con Nico. Ebbene, siamo alla fine degli anni 60, dove c'è di nuovo un'altra importantissima svolta ed evoluzione tecnologica portata dalla guerra, ovviamente. Ah sì, certo, vero. Registrato via cassette, bello, cioè interessante. È stata la tecnologia che è stata rubata dagli inglesi e dagli americani all'esercito tedesco, poi è stata studiata e sostanzialmente utilizzata per qualsiasi altra cosa. E la cassetta è una cosa interessante perché poi ha anche abilitato alla home copy, alla copia fatta in casa, no? A registrare la canzone che passa alla radio. E questo ha abituato anche il pubblico e la gente in generale ad avere a che fare con delle piccole cose tecnologiche. Vabbè, la cassetta pre-registrata ovviamente avrà un successo incredibile e supererà addirittura la vendita degli LP. Questi sono anche gli anni, cioè nel 73, cioè pochi anni più tardi, Kool Herc ha fatto la prima festa hip hop della storia a New York, quindi anche questa generazione di artisti che sperimentavano in questo ambito sostanzialmente era la stessa generazione di artisti che poi hanno sperimentato in quell'altro ambito. Questi sono gli anni in cui Robert Moog progettava i primi e diffondeva i primi sintetizzatori, insomma tecnologia molto molto più evoluta. E questa nuova generazione di musicisti era più, come si può dire, virtuosa, aveva studiato più la musica, aveva una formazione musicale più ricca, ecco. Molti erano tastieristi, conoscevano la musica colta, classica, conoscevano il jazz. Conoscevano i Beatles, bravi, molto più importante probabilmente, conoscevano i Beatles e quindi hanno insomma fatto la propria reinterpretazione di questa cosa. Con l'aiuto e sulla spinta di queste nuove tecnologie è nato quello che poi hanno chiamato progressive rock, prog. Negli Stati Uniti c'era Zappa, che nel settembre 67 ha tenuto un concerto alla Royal Albert Hall di Londra, dove sostanzialmente c'erano tutte le band inglesi dell'epoca. Probabilmente, cioè, leggiamo, mette la comunità dei musicisti rock inglesi di fronte a un diluvio di invenzioni e virtuosismi che fa impallidire l'immagine di avanguardia di Sgt. Pepper's, che era stato appena pubblicato. La stessa etichetta che aveva prodotto questo album era la stessa dei Velvet Underground, ed è per questo motivo è stato dall'uscita di quell'album che secondo l'etichetta stessa era fin troppo sperimentale e all'avanguardia, che non ha permesso di fargli fare un'uscita contemporanea a quella dei Velvet. E, appunto, progressive rock è una cosa anche lì, come tutte, come molte etichette che si danno così, molto fumosa. Però se vogliamo pensare tra psichedelia e progressiva, un nome su tutti ci sono i Pink Floyd, il cui album d'esordio, che è The Piper at the Gates of Dawn, è uno dei miei dischi preferiti di sempre. I primi Pink Floyd sono interessantissimi, poi hanno preso questa cosa, cioè a me piacciono tantissimo anche tutte le altre cose che hanno fatto, ma poi hanno preso questa cosa del gigantismo, no? Poi sono diventati davvero progressive. E appunto questo fatto del gigantismo, dell'autoreferenzialità, sono le critiche che sono state fatte a tutte queste band, soprattutto ai Pink Floyd. Loro in realtà sono stati assolutamente inscalfiti. Anche quando, insomma, poi se n'è andato, li ha lasciati, e poi se n'è andato Sid. Sì, Sid Barrett, stavo per dire Sid Vicious, ma sì. Invece era Sid Barrett. Loro comunque, anche sull'onda dell'ispirazione che lui ha lasciato loro, hanno venduto una quantità di dischi che forse non è possibile mettere in numero. A noi però non piace suonare i Pink Floyd, non ci piace suonare la roba un po' scontata, quindi andiamo a sentire un altro pezzo che è decisamente prog, ha decisamente delle componenti di complessità molto più alte e di gigantismo, tant'è, a proposito di gigantismo, è un pezzo che dura 12 minuti e 10, noi ovviamente non lo ascolteremo tutto, ma di un'altra mega band della storia che si chiama i Deep Purple, del disco che si chiama Deep Purple, loro esordio, cioè del 1969. Anche se siamo a metà maggio, il pezzo si chiama April, dovevo farla questa battuta del cazzo, e la andiamo a sentire, che sta sempre battito madre, in diretta e live da Exalge. Cioè, forse è l'inverno. Mi piace questa voce. Funziona meglio questa. Sì, fammi entrare. Sì, sì. E, sì, abbiamo fatto andare i primi 6 minuti. Gli altri 6 ci risentiamo in sottofondo mentre torniamo in diretta. April, dei Deep Purple, questo, cioè, alla fine è un pezzo di musica classica. Sì, questa grande sperimentazione. Ma anche, come hai detto tu, gigantismo ha portato probabilmente ad attingere a ogni parte. Anzi, ma l'hai detto prima, jazz, musica classica, qualsiasi genere. Sì, come poi hanno fatto anche i Pink Floyd che abbiamo nominato prima. Insomma, quanto, cioè, Shine On You Crazy Diamond. Loro facevano addirittura, no, cioè Shine On You Crazy Diamond, mi sembra 18 o 24 parti, insomma. C'erano proprio dei concetti. Interessante, è la prima volta che in un genere musicale viene presa un'altra cultura, un altro scenario, no? Di quelli che abbiamo affrontato. Sì, bello, ma infatti forse volevo parlarne dopo con i ragazzi, con i Materazzi Future Club, che non abbiamo ancora nominato, ma insomma abbiamo nominato in comunicazione, saranno i nostri ospiti più tardi. Credo che questa sia una delle grandi caratteristiche alla fine della musica pop, musica popolare, quindi per antonomasia del rock, che ripeto, ha vissuto in prima persona, no, personificandolo, questo cambiamento da musica folk popolare a pop per antonomasia. Da questa grande complessità andiamo a una cosa che poi è davvero molto molto più semplice, e succedeva sempre in Inghilterra, e ha cominciato a succedere esattamente in questi anni qui. In realtà iniziava negli Stati Uniti, iniziava a New York il punk, movimento anarchico e nichilista per eccellenza, ha trovato radici nel club, nel famosissimo club CBGB di New York, ma in realtà nella Londra del 78 ha trovato il proprio terreno più fertile. A proposito di capacità del rock e della musica pop di legarsi a tante cose di natura diversa, qui dobbiamo parlare prima che di musica, di moda e di movimento culturale in generale, perché qui il nome da fare è quello di Vivienne Westwood, lei inglese, al di là di tutta della sua biografia, insomma, nel 65 tramite il proprio fratello conosce Malcolm McLaren, che era questo statunitense impresario, insomma un uomo molto ricco, con il quale apre un negozio di moda al 430 di King's Road a Londra, che cambierà vari nomi: Let It Rock, Too Fast to Live, Too Young to Die, Sex, Seditionaries, e alla fine si chiamerà World's End. E questo, tra l'altro, insomma, King's Road non è esattamente un quartiere popolare, è un quartiere abbastanza per bene. Figuratevi in questo quartiere un negozio di moda che si chiamava Sex, davvero abbastanza in controtendenza, se vogliamo. E insomma, questo negozio non è semplicemente un negozio in cui si comprano vestiti, ma è un negozio in cui ci si ritrova un certo tipo di controcultura e di persone, young Londoners, giovani londinesi che non sopportavano più il capitalismo, la monarchia inglese, il materialismo che era diffuso ovunque. Anche nella musica. Anche nella musica. E si trovavano al negozio di moda di Vivienne Westwood e di Malcolm McLaren. Tra questi personaggi c'erano anche i membri dei Sex Pistols, di cui Malcolm McLaren si è innamorato e è diventato il loro manager. Il loro primo singolo si chiamava, a proposito di monarchia, Anarchy in the UK, e usciva il 26 novembre 1979, ed è stato da subito capito come fosse uno statement, no? Una cosa molto assertiva, quasi un manifesto di una generazione che si ribellava a tutto quello che era venuto prima. Scusa la correzione, 76? Cosa ho detto? 79. Ah vabbè, era il contrario. Forse è un tipo molto preciso di dislessia, questo di girare i numeri. Grazie però Colli, perché è importante. 26 novembre 76 hanno raggiunto la fama o l'infamia quando ospiti del Today, del programma Today di Bill Grundy, loro sono arrivati all'ultimo per sostituire i Queen e non l'avevano presa bene, sostanzialmente sono comportati molto male con lo staff del programma mentre aspettavano di andare in onda, e in realtà gli veniva offerto da bere, mentre erano in onda hanno molestato la conduttrice, hanno detto parolacce come shit, fuck e tutta questa serie di cose. Insomma, hanno raggiunto l'infamia nella società borghese inglese di metà fine anni 70. C'è un episodio molto divertente che è successo una settimana prima della Jubilee Week, in cui si celebra sostanzialmente la monarchia inglese. McLaren ha noleggiato una barca in cui ha fatto suonare i Sex Pistols e mentre navigava sul Tamigi, passando davanti a Westminster. Insomma, questa cosa è stata ovviamente percepita come un insulto alla regina e a tutta la famiglia reale. Sono stati un botto, cioè sono stati tutti arrestati. Poi in realtà nessuno dei Sex Pistols è finito in galera, ma sono stati arrestati. In Inghilterra avevano questa fama, vanno a fare un tour negli Stati Uniti, date annullate, bordelli, insomma. La band non sopravvive a questo tour negli Stati Uniti, sono tutti in astinenza, nervosi, litigiosi, torneranno tutti separati, qualcuno non tornerà e qua finisce la storia dei Sex Pistols. In realtà poi in Inghilterra c'è una bella sovrapposizione tra due controculture dell'epoca, cioè questa punk e quella reggae delle prime, seconde e terze generazioni caraibiche dell'epoca, che a volte si trovavano dalla stessa parte della barricata, a volte in realtà no. E a proposito di questo, noi ci andiamo a suonare una traccia dei Clash, che è in realtà una cover di Junior Marvin, giamaicano, giamaicanissimo, che al tempo non la prese bene e disse "They have destroyed Jah Work". Insomma, c'è questo... I giamaicani sono abbastanza noti per essere abbastanza intransigenti, qualcuno l'ha presa bene, qualcuno l'ha presa meno bene. Noi qui forse ci vogliamo esprimere, perché in realtà è lo stesso meccanismo di cui abbiamo parlato, che succedeva negli anni 50, di bianchi che fanno cover di neri e poi raggiungono il successo discografico. E insomma, questo è il pezzo che in molti probabilmente conosciamo, si chiama Police and Thieves dei Clash su Battito Madre. With their guns and ammunition. Eh sì, questa è la versione punk, la versione rock, la versione di Clash, di un grande classico del reggae giamaicano che è Police and Thieves. L'originale è di un uomo che si chiama Junior Mervyn. Vi invito ad andare ad ascoltarla perché è molto molto bella anche quella. Ebbene, mentre noi siamo tornati in diretta su Radio Exalge, su astralbene.com, live da Exalge, questo è Battito Madre, l'episodio 5, finale di stagione, perché il talk show tornerà la prossima. E siamo arrivati quasi alla fine di questo nostro, di questa nostra parte talk, in cui andiamo a toccare un tot, una serie di evoluzioni della musica che poi andiamo in, di cui andiamo a interessarci in questa puntata. Ebbene, dai Clash, da questo disco che è di fine anni 70, è del 77, andiamo a fare un po' un salto, perché andiamo agli anni 90, perché il rock nello UK, nel Regno Unito, negli anni 80 ha vissuto un periodo un po' di depressione, perché nel frattempo era nata a metà degli anni 80 la scena rave, nel frattempo negli Stati Uniti era nata la house, che poi era stata portata in UK, nel Regno Unito, soprattutto a Manchester, e quindi dove poi insomma, è nata l'acid house, che ha generato tutto un movimento a fine anni 80, che poi si è andato anche ad unire ad una nuova ondata di rock. Protagonista di questo percorso è un locale che si chiama La Sienna, è un'etichetta che si chiama Factory Records. Ma insomma, ci arriveremo, anzi ci siamo arrivati, perché il centro di questa scena in cui si va a fondere la radice rock inglese con l'acid house di recente importazione è esattamente a Manchester, che è stata soprannominata Manchester, nel locale di proprietà appunto della Factory Records, che si chiamava La Hacienda. Locale leggendario, il cui nome si ispira a un testo anarco-situazionalista in cui si dice che la hacienda, intesa come possiamo dire fattoria, un po' di campagna, va costruita. In questo caso è un po' una metafora per il mondo intero, per la società. Insomma, a Manchester succedeva questo. La band di cui bisogna parlare in questo caso sono gli Stone Roses, no? Il genere, oh, vabbè, non l'abbiamo ancora detto, ma si chiama Britpop. Gli Stone Roses, che erano il fiore all'occhiello di Factory Records, no? Agli Stone Roses si ispirano i King, o tra i due King, perché poi dipenderò da che parte si sta, vero? Se si tifa Chelsea o se si tifa Manchester City. Si ispirano gli Oasis, che dopo essere stati a un concerto degli Stone Roses, in cui c'era proprio questa idea, Fool's Gold, è il primo pezzo, viene considerato, in cui si prova proprio a mischiare la cultura club e il rock. L'idea degli Oasis era di creare canzoni con le melodie dei Beatles, con i riff degli Stones e con, insomma, un po' più ricca. Ha avuto subito grandissimo successo. Dicevo prima, in base a da che parte si sta, perché la rivalità fortissima degli Oasis è con i Blur. Non esiste nessuno, almeno in Inghilterra credo, a cui piacciono entrambi. È una rivalità accesissima. E questo, insomma, gli Oasis li conosciamo tutti. Conosciamo tutti anche i Radiohead, che sono immediati eredi, se vogliamo, o contemporanei in un certo momento di questa scena, e sono quelli, forse insieme agli Oasis, che hanno saputo mantenere un successo più duraturo. Il loro disco, Ok Computer, è uno dei dischi più importanti della storia della musica pop e della musica rock. Scusa. E insomma, questo, noi siamo praticamente arrivati con il Britpop a chiudere questo nostro percorso, questo nostro discorso, che abbiamo iniziato quasi con il blues, con l'R&B, con Fats Domino, e finiamo a parlare di Radiohead, e finiamo con suonarci un pezzo appunto che è davvero rappresentativo di quella scena, che si chiama Manchester e si chiama God's Cop, della band Happy Mondays. Noi torniamo tra pochissimo in diretta su Radio Exile, su astralbene.com, con i nostri ospiti Materazzi Future Club, mentre noi ci andiamo a fumare una sigaretta e ascoltiamo questo pezzaccio. Esatto, eccolo qui, ci siamo, rientriamo in diretta su Radio Exile, da starbell.com. Usciamo da God's Cop degli Happy Mondays, un disco degli anni 90 in cui stavamo parlando di quanto la cultura club e quella del rock si fosse fusa in quegli anni. L'Hacienda, Acid House, cultura dell'ecstasy, roba divertente. Mentre noi torniamo in diretta appunto su Radio Exile, da starbell.com, e diamo il benvenuto ai nostri ospiti che sono i Materazzi Future Club. Grazie ragazzi. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Bravo. Speravo facessi un collegamento tipo arriviamo agli anni 90, gli anni che hanno dato i Natali ai nostri ospiti. Parlavamo di ecstasy, che ai nostri ospiti piace tantissimo. Sì. No, allora dipende dai giorni. No, voi allora... sabato. Sabato sì, dai. Una volta al mese. Allora, voi siete qui, a parte Edo lo conosciamo da tanto, ha visto sì. delle puntate. Se siete qua, grazie a Edo. Siete qua, grazie. Prima di tutto, grazie Edo. A voi, ragazzi. Cioè, per colpa di Edo. No, però avete sentito un po', avete seguito i discorsi che stavamo facendo. Abbiamo finito con gli Happy Mondays, ma in realtà prima abbiamo parlato di punk, che forse voi interessa di più. I Sex Pistols sono un po' delle icone per voi, o già vi pensate diversi? Ma secondo me noi siamo punk solo per la nomea, in realtà. Cioè siamo un po' più imborghesiti, penso. I Sex Pistols erano borghesi comunque. Vedi, allora torna. No, sì, in generale penso che quello che facciamo sia più di sonorità punk che forse non di attitudine, ecco, quello direi. Però sì, sulla linea penso che forse noi siamo molto più legati a i 90 e 2000, che un po', vabbè, immagino che poi prima o poi nella puntata 2 ci sareste arrivati. Però sì, faremo rock la stagione 3, vorrei esatto, dire. Esatto, stagione 3. Ci vediamo a settembre. Ci vediamo a settembre, organizzate il tour, sapete che passerete anche da qui, ovviamente. E quindi noi sì, probabilmente siamo un po' più legati a, cioè la cosa bella in realtà è che siamo tutti e tre fan in generale del rock, ma ognuno di noi ha un po' un rapporto diverso, e quello in cui ci siamo trovati in realtà negli ascolti comuni sono proprio quelli un po' che abbiamo poi deciso di mettere in musica, ecco, che è un po' quel post-punk metà anni 2000 in cui iniziavano a mettere la cassa dritta, quasi techno, e quelle sonorità lì con chitarre elettriche, ma anche sintetizzatori, eccetera. Lì un po' che secondo me abbiamo trovato un luogo comune. Sì, però stavo pensando che riascoltando ora gli Happy Mondays, quella cosa che poi successe nel 2000, cioè di legare il punk rock, l'indie rock classico suonato al mondo del dance floor, quindi più alla cassa dritta, succedeva già alla fine degli anni 70-80. Cioè, perché di base questa roba qui, come i Primal Scream dopo negli anni 90, era prendere tutto il mondo rock e unirlo a quello del dance floor, che non era cassa dritta, ma era tutto più ritmato, più e più bongo addicted. Qui abbiamo il re dei bonghi, Marco. Bingo bongo. Manu ciao. No, è tutto l'unione tra sia Giamaica e ritmi africani che sono arrivati in America, che poi sono arrivati in Inghilterra. Il punk nasce un po' da quello, e sicuramente prendiamo questa scia. Infatti, da quello che ha detto Edo, cioè direttissimamente figli dell'Hacienda, dei Blue Monday. Sì, tra l'altro, i miei zii sono proprio di lì. Proprio di sono mai stati all'Hacienda. È presente l'Hacienda. Ci sei rimasto male, Marco, che abbiamo riso. Vai a sinistra. No, a sinistra, dopo quando vieni a sinistra c'è un palazzino e lì sì, io da piccolo è lì che sei nato. E sì, andavamo a sentire i avrei dei cugini che avrei dei cugini che sono stati concepiti all'Hacienda. Sì, no, scherzo, sì, ovviamente. Sì, però quel mondo quello. Allora, noi ai nostri ospiti, quando li invitiamo, facciamo chiudere un po' le nostre playlist. Il primo pezzo che avete scelto mi riempie il cuore, perché sono gli Specials, ed è Ghost Town. Yes. È una tua pick. Sì, allora, perché io adesso sono in trip con tutto il mondo ska, primo ska, cioè appunto quello degli First anni Wave. 80. perché secondo me risuccederà. Primo ska, vabbè, poi io ho questa teoria che come è tornato il punk e nessuno se lo aspettava. Di base quando sono usciti gli Idols sembrava tipo una roba, ma questi che cazzo fanno ancora il punk adesso, cioè non ha più senso. E invece poi si è ricreata questa scia. Nel lato della musica dance invece sta tornando di brutto la drum and bass o la dubstep, la dub, tutto quel mondo invece preso dalla Giamaica, e come era successo alla fine degli anni 70, secondo me tornerà, risuccederà adesso, perché alla settima wave. Quindi per farci trovare pronti, dico, ascoltiamo. Per farci trovare pronti, ascoltiamo. Ci aspettiamo un pezzo ska da uno dei grandissimi. Bisogna convincere Edo. Ha un problema personale con la Giamaica, Edo, ma se lo toglie ascoltando gli Specials. Sì, vorrei vederlo al liceo se c'aveva problemi con la Giamaica, Edo. Let's go. Gli Specials, Ghost Town su Battista Madre. This town is coming like a Ghost Town dei The Specials, uno degli anthem di quella scena scala. Insomma, parlavamo adesso, no, dello ska, di questa cosa giamaicana di metà fine anni 50, che poi arriva in Inghilterra e ritorna in mille wave diverse. Quindi gli Specials forse era già, non so se la seconda, forse già la terza, Rick Cicero, che secondo te tornerà ancora. Sì, fun fact, ho visto che su Instagram, quando sono usciti i vari Wrapped di Spotify, la canzone più ascoltata da St. Vincent, la chitarrista e cantante, era Ghost Town di The Special. Props a St. Vincent. Ah, e invece i Vampire Weekend hanno scelto i The Beat, che sono un altro gruppo ska, che non ho, inglese, ad aprire molte date del loro tour. Altra cosa che è... E quindi Edo, che al liceo non ce li aveva, però adesso ha dei problemi con la Giamaica, dovrei farti una ragione. Ho perso i capelli troppo presto, forse. No, stop. Quelli, guarda. Attenzione. Ma ci dicevi anche tu prima, Ricky, che obiettivamente non è una cosa che non sta tornando solo nel rock, ma anche giustamente nell'elettronica. C'è proprio un po' un botto, di feticismo di questo bassone, un po' di downtempo. Cioè, poi sì, la percezione che ho avuto io nei miei vari giretti con quelle cose di cui si parlava prima, che noi non abbiamo mai fatto, cioè, no, mai. Stia tornando di, cioè, adesso vada quasi di moda proporre serate più dub e drum sta anche and tornando bass. Molto il sound system, un bot, esatto, c'è, cioè, sì, il concetto di sound system, e c'è, cioè, anche non il concetto di sound system stesso o l'appropriazione del concetto di sound system, ma questo è tutto un altro discorso. No, dai, battuto. Comunque sì, nel mondo della musica elettronica sta tornando quella cosa lì, nel mondo della musica tonata sta suonando il punk, si rincontreranno, immagino, sì, come forza, è successo negli anni forza. 80. Ma secondo me si è sentito qualcosa anche a Sanremo. Non lo so, no, sto scherzando. Vabbè, nelle radio italiane tutte le estati, cioè almeno un pezzo con un levare da almeno 5-6 anni dai cosi, come si chiamano quelli, i Bundabash, cioè l'emblema del pop, fortissimi, l'emblema del pop radiofonico che si appropria del levare le radici catie, no, sono i Sound System. Attenzione piano, loro di Foggia, no del Salento. Salento, diciamo, è la Giamaica italiana. La gente, quando si parla di ska, vede le cose in modo negativo, però bisogna togliere tutto lo ska catalano e tutto lo ska salentino. Assolutamente. E secondo me è un bellissimo genere musicale. D'accordo. Noi proseguiamo un po' con l'idea del rock di Materazzi, con questa seconda loro pick, che a me è piaciuta particolarmente e che forse non mi aspettavo. Sono gli Offlaga. Sì, devo dire. Vabbè, a parte, appunto, noi abbiamo fatto anche due pezzi con Max Collini, quindi bello. Un amico. Cioè, è un bro, un bro. E, non penso sia un compagno, penso preferirebbe più che bro. Quello dipende. No, secondo me questo è un po' il punto d'incontro tra i nostri ascolti. C'è questo post-punk dritto, poi magari gli Offlaga hanno una linea un po' più parlata, ovviamente, eccetera. Però trovo che nella drum machine, nel basso dritto, ci sia un po' quello che in modo molto naturale ci ha portato a questo sound. Ecco, quello un po' il nostro sound, indicativamente. Sì, tra l'altro, quando abbiamo pubblicato il primo brano, che non si sapeva ancora chi eravamo, e stavamo bene perché potevamo passeggiare per strada senza problemi, e su Facebook qualcuno aveva scritto secondo me è gente degli Offlaga Disco Pax, non sapendo poi che uno aveva Max, cioè potrebbe essere veramente mio padre. Un altro purtroppo ci ha salutati e l'altro non credo faccia più musica, però. Vabbè, e voi al tempo immagino che abbiate presa molto molto bene. Beh, sì. Siete un po' tipo gli Shadows per i Ventures. Sì. La sentono gli Offlaga questa rivalità con i Materazzi e il Future Club? Molto. Infatti è sempre lì a fare pezzi con noi. E siamo contenti. Va bene, allora il pezzo degli Offlaga è Robespierre, lo andiamo ad ascoltare in diretta. Battito Madre, l'ultimo talk show di questa stagione con i Materazzi Future Club. Yes. Cioè, loro Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Oxa Sanremo conciata come una punk londinese. Ivan Allen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. Una scritta degli Ultras della Reggiana dopo il raid aereo americano su Tripoli negli anni Ottanta. Diceva, grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx. Via Ho Chi Minh. Via Che Guevara. Via Dolores Ibarruri. Via Stalingrado. Via Maresciallo Tito. Piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%. Io Flaga, Disco Pax, la seconda pick di Materazzi Future Club direttamente dall'Emilia più rossa e profonda che c'è, molto bello, mi piace. Sì, dicevamo, raga. scusami se ti interrompo. Parlavamo del pezzo e era come se, cioè da quello che ho capito, tu dicevi Edo che nella produzione c'era una sorta di... di intesa, quindi magari non una programmazione, non una stesura esattamente del pezzo, ma più un flusso così. Sì. Che è effettivamente è molto punk come idea. E quella mia domanda è una cosa che accomuna anche le vostre produzioni o è più una cosa in studio? E... Ma secondo me in realtà la grande confusione quasi che c'è nella struttura di questo pezzo, che non segue un ordine preciso ma un riff, è sul fatto che gli Offlag hanno questa forma canzone per cui parlano e lui legge dei testi e li fa in prosa, quindi la canzone si poggia sulle parole, non le parole sulla canzone. Secondo me invece la struttura dei nostri pezzi fa un po' al contrario, cioè sono le parole a incastrarsi nella musica. Di solito il lavoro iniziale è quello più musicale, e poi ci si inserisce appunto gli estratti delle varie interviste, varie commenti tecnici di appunto commentatori di calcio che inseriamo nelle basi, però ecco sì, quindi secondo me è un po' più schematica probabilmente la struttura dei nostri, no? Che dite? Perché scusate, io non conosco bene la formazione esatta, cioè ad esempio come vi dividete in un live? Sì. Live è molto diverso dallo studio, perché dal vivo c'è Marco che è il nostro performer, Siamo tutti performer. Comunque. Sì, nel senso che facciamo finta di suonare. No, Marco, dal vivo siamo percussioni e due chitarre. Ok. E poi c'è uno strumento della Roland che si chiama Roland SP404. Che senza quello non. Maledetto campionatore. Sì, esatto. Non potremo fare assolutamente nulla. Certo. E che manda delle basi, dove ci sono di base la batteria, che è sempre drum machine, certo. Il basso. Ok. E le immagino voci. Anche le voci, esatto. Sì, perché sennò abbiamo provato a contattare Totti, Caressa, Cassano, Cattuso. Però hanno detto che non vogliono venire, ma. No, poi c'era un rimborso spese un po' così. E... rimborso perché il rimborso è esentasse, giusto? Allora te lo dico. Gattuso ci ha chiesto 100 euro di rimborso spese. Andiamo anche noi, li pigliamo. Vabbè, però, avete preso Federico Russo, che comunque a livello generazionale, ragazzi, a me mi ha sbloccato davvero dei ricordi. Cioè, gol di A me mi ha sbloccato tante cose. No, però parliamo di quest'ultimo. Al di là che... sembrava cose brutte da come l'hai detto. No, cose belle. Al di là del singolo, che poi ci andiamo ad ascoltare, parliamo dell'ultimo lavoro vostro. Sì. Sì, l'ultimo EP si chiama Panchinari perché noi arriviamo da un album, il nostro primo album che si chiama Formazione Titolare, che è appunto una formazione titolare, sono 12 brani, 11 calciatori schierati su un campo, più l'allenatore che è il grande boemo, Zeman. Che voi siete geniali. E quindi diciamo che c'è nato un po' l'idea di parlare della panchina, appunto, perché girando molto l'anno scorso abbiamo fatto più di 40 date in tutta Italia e quindi girando tanto abbiamo visto tanta provincia e il tema della panchina è molto vivo, nel senso che tanti tipo ti dicono: ah, cazzo, da qui, da sto paesino è nato calciatore X che è stato in panchina nel Milan, e allora era tutto un tema molto forte e abbiamo deciso appunto di provare un po' a raccontare con tre brani la panchina. La panchina che poi, scusa, è già nell'immaginario popolare, certo, hip hop, certo, italiano, certo, perché ci stanno su tutti Noize, Truce Clan. Ok, sai la panchina che io... quella, no, più del parchetto. In the panchine, ok. Esatto. No, io parlo più di una panchina, dell'animo, capito? Il luogo. E vabbè, quindi niente, abbiamo provato un pochino a costruire con tre brani il racconto di quello che succede invece al di fuori, oppure in generale su personaggi che non vivono il campo per forza, ma magari vivono, insomma, periodi più difficili, perché nella panchina, la panchina è quel luogo in cui succede un po' di tutto, dal disagio estremo alla voglia di rivincita alla frustrazione. E quindi nell'EP ci sono tre pezzi che sono Panchinari, appunto, che è un po', diciamo, l'anthem dell'idea di Panchinari. Poi c'è il pezzo con Federico Russo, Dio perdona Riganò, e che parla di Riganò, appunto, uomo di provincia. Alternava muratore a calciatore. Vogliamo esplicitare, raccontaci un po' di Riganò. Riganò, calciatore siciliano di Lipari, mi pare, che ha giocato, è diventato molto, diciamo, ha raggiunto alti livelli a 25 anni. Lui prima faceva il muratore, poi la Fiorentina è diventata Fiorenzuola, Fiorenza Viola, una roba del genere, perché Fiorenzuola come quello delle Coverato Grill. Esatto. E niente, Riganò ha riportato la Fiorentina in Serie A, finendo poi in Serie A alla prima partita, mi pare sia spaccato e quindi si sia rotto il ginocchio, non lo so, e quindi è finito in panchina. Martire, ma esatto, ma esatto. Santo, cioè. E quindi nel brano raccontiamo un po' questi due lati, dalla vita muratore alla vita da calciatore. Di gloria. Esatto. Bellissimo, esatto. Posso dire, è veramente bello molto, come molto immaginario, sì. E questo appunto quello abbiamo fatto con Fede Russo. E poi l'ultimo pezzo invece è un pezzo con Collini, sempre dell'EP, che si chiama Igor Simutenkov, che è questo calciatore sovietico che è venuto a giocare alla Reggiana, cioè il riassunto di Collini e della sua carriera che lui è molto fan della Reggiana e quindi aveva sta storia del primo sovietico a venire in Italia, boh, sai, quelle robe lì fumate sue. Vabbè, molto molto bello. Questa sera anche Abbattito Male, siamo fan della Reggiana e noi ci andiamo a sentire adesso l'ultimo pezzo della nostra playlist, poi torneremo in diretta per le ultime due chiacchiere, i saluti, che è esattamente questo come Federico Russo, storico conduttore di Gold DJ, che insomma abbiamo nel cuore, Dio perdona, Riga no, Materazzi Future Club con Federico Russo. No. E torniamo in diretta per salutarci, per dire che qui abbiamo sentito anche qui un levare, avete dovuto pagare, c'era un po' di levare, l'hai sentita là, il Caraibi, hai sentito il Caribe, per dire anche che il Dio perdona Riga no di Materazzi Future Club, il singolo che ha anticipato il loro ultimo EP che si chiama Panchinari, il video è stato girato proprio qui nella sala di Exalge. Confermo. Grazie per la conferma, perché è il notaio. Edo come hobby, cioè di mestiere fa il musicista. E come metto hobby, firme. Come hobby fa il notaio. E niente, grazie mille ragazzi per aver accettato il nostro invito, essere stati con noi. E grazie per... Grazie a voi. Per farci sentire le musiche che ci farete sentire adesso, perché poi c'è un momento DJ set, noi andiamo avanti qui insieme. Exalge, se te lo sei perso, parlo con te che ci ascolti dall'etere, insomma sono un po' cazzi tuoi, la prossima volta impari. Il talk show di Battito Madre torna la prossima stagione, noi ci sentiamo presto in altre vesti. Grazie ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie, grazie mille. Viva Battito Madre, Bettito. Ciao. Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. To do. Fuck. To do. www.askthebenny.com.